la madre di ogni male di oggi è la speculazione. Che cos'è il controllo? Volete accomodarvi, signori? L'era dei robot di Simone Spezia. In apertura di questa puntata voglio raccontarvi una storia. È una storia che si svolge in realtà in un tempo brevissimo, in 45 minuti circa, che ci aiuta a spiegare cosa succede quando un'intelligenza artificiale o qualcosa di molto simile ad un'intelligenza artificiale autonoma non è abbastanza intelligente o è mal programmata, e cosa succede quando chi la deve controllare si dimentica di farlo. La storia inizia e si conclude il 1 agosto del 2012, ossia esattamente 3 anni fa, e ha come protagonista una delle più importanti aziende, almeno all'epoca, che operano sul mercato americano. Una buona giornata da Simone Spezia. E una buona giornata anche dalla macchina che prima o poi ne prenderà il posto. Vi ricordo, come sempre, che per suggerire un nome da darmi, potete scrivere a radiorobot@radio24.it. La storia che vi raccontiamo è quella di Knight Capital Group. Alla fine del 2011 era il primo operatore in termini di volumi sul mercato dell'azionario americano, con una quota di oltre il 17%. Dunque, è il 1 agosto del 2012, come vi abbiamo detto, e Knight Capital accende l'interruttore di un nuovo sistema di trading automatizzato sul New York Stock Exchange, la borsa americana. Teoricamente ogni nuovo sistema dovrebbe generare più profitti. Il miglioramento delle macchine, il miglioramento degli algoritmi dovrebbe consentire una velocità sempre maggiore, la possibilità per il computer per inserirsi nei margini tra domanda e offerta, spuntando un guadagno. Ma qualcosa non va. Anzi, non va proprio nulla. Il software interpreta male i meccanismi di funzionamento del mercato. Secondo Nanex Research, un'azienda che ha provveduto ad una analisi specifica sui fatti di quel giorno, il sistema inizia a perdere regolarmente. Un esempio: nel trading sulle azioni di Exelon Corporation, un'azienda che opera nel settore del gas e dell'energia, arriva a perdere 15 centesimi per ogni operazione. Il problema è che le operazioni si svolgono ad una velocità quasi non misurabile, sono 40 al secondo, 2400 al minuto. Ogni minuto si perdono $360 per un solo titolo oggetto degli scambi. Moltiplicate tutto questo per gli altri titoli ed estendete la quantità di operazioni per la durata di 45 minuti. Affidandosi completamente alla macchina, è quello il tempo che ci mette l'azienda a capire cosa sta succedendo, 45 minuti. Le spiegazioni di ciò che è avvenuto sono state varie, tra queste è quella secondo la quale Knight Capital avesse attivato un altro software destinato ai test e che questo software avesse operato in direzione opposta. I due software non comunicavano tra loro e non comunicavano con l'esterno soprattutto. L'altra ipotesi è che un ordine di comprare 5 miliardi in azioni in 5 settimane sia avvenuto in realtà in 20 minuti. Una delle spiegazioni più accreditate è quella dell'errore umano. Un tecnico avrebbe dimenticato di copiare una stringa di codice in uno degli 8 server. Cosa succede dunque alla fine in quei 3/4 d'ora? Il software piazza 4 milioni di ordini su 154 titoli, per un totale di quasi 400 milioni di azioni. L'impatto è mostruoso. Aziende di non grande capitalizzazione, come per esempio Wizard Software, passano dai $3.6 per azione del giorno prima agli oltre 14 del giorno dopo. È difficilissimo fare il conto. Per fortuna di operazioni di questo genere viene tenuta ampia traccia. Knight Capital perde $440 milioni, il 33% in borsa quel giorno, il 63% il giorno dopo, e fu acquistata, salvata potremmo dire, 6 mesi dopo. In questa storia c'è tutto: macchine che agiscono autonomamente, uomini che non controllano, uomini che commettono errori, dipendenza quasi completa da un robot. Wow, almost 1000 points! We call this a capitulation! Wow, look at that Nasdaq 100. Wow, look at that. Almost 1000 points down. That's a big shakeout. E questa evidentemente non è una macchina, ma un cronista radiofonico americano che si occupa di mercato e parla di un altro episodio, forse un po' più noto, almeno da queste parti. È il cosiddetto flash crash del 2010, quando in pochi minuti l'indice americano Dow Jones subisce una discesa di circa il 6% per recuperare subito dopo. Si tratta di un movimento di borsa, giusto per darvi la misura, che ammonta a $500 miliardi. miliardo più, miliardo meno. In quella giornata molti guadagnarono e altrettanti persero una quantità enorme di denaro. Nell'aprile scorso è finito in manette un uomo, un trader britannico per tutto questo. Cosa avrebbe fatto? Avrebbe strutturato un algoritmo con il quale avrebbe piazzato una serie di ordini di vendita che apparivano come provenienti da altrettanti trader, mentre di ordini di vendita non ce n'era nemmeno uno. Una mossa che ha scatenato non solo la reazione aggressiva degli altri trader in carne e ossa, ma soprattutto di quelli algoritmici, che hanno visto che qualcuno vendeva e hanno iniziato a vendere pure loro. Parliamo di questo oggi, quindi, di macchine che agiscono autonomamente sul mercato e di come queste macchine vanno a cambiare il mercato stesso. Voglio salutare innanzitutto Alfonso Puorro, che è della Banca d'Italia e del Servizio Investimenti della Banca d'Italia. Buongiorno Puorro e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ed è autore di uno studio, se siete interessati all'argomento, e anche di comprensione abbastanza semplice, evidentemente se masticate un po' di economia, di uno studio proprio sull'high frequency trading, cioè sul trading ad alta velocità, ad alta frequenza, che potete trovare sul sito della Banca d'Italia. È un lavoro che risale al 2013. Le chiedo, Puorro, innanzitutto di darci una dimensione di questo fenomeno. Prima di dare dei numeri riguardo alla dimensione, preferirei definire il fenomeno comunque particolare, cioè un fenomeno che riguarda il trading di breve e brevissimo periodo, senza quasi per nulla avere delle influenze sul trading di medio e lungo periodo. Quindi è un fenomeno che per alcune tipologie di investitori che guardano i fondamentali quasi potrebbe essere trascurato. Dico quasi perché comunque ci sono dei piccoli effetti, ma mentre invece per i trader di più breve periodo è un fenomeno significativo se non preponderante. Cioè, lei ci sta dicendo questo, mi scusi Puorro, perché così già iniziamo ad entrare in quello che è il cuore della questione e uno degli aspetti che potrebbe essere più problematico. Sul medio e lungo termine, in realtà il trading algoritmico in generale e soprattutto quello ad alta frequenza non ha un impatto così forte. L'impatto vero ce l'ha appunto nel breve termine. Sì, ovviamente parlo in base a delle considerazioni meramente personali, in base alla mia esperienza di mercato e a quello che ho visto sul che ho potuto studiare del fenomeno. Sì, si può dire che comunque il trading ad alta frequenza soprattutto, ma anche il trading algoritmico, può essere trascurato se si guarda orizzonti temporali di più lungo periodo, dove invece le forze economiche hanno sempre il sopravvento. Quando invece si restringe l'orizzonte temporale di investimento, quindi si va a ragionare nel giorno oppure nel minuto o nel secondo, il trading ad alta frequenza diventa un fattore importantissimo da tenere in considerazione quando si decide se investire o meno con quell'orizzonte temporale. Sì, prevale, questo lo dico io naturalmente, non lo dice lei, però prevale quella visione, la visione più medio e lungo termine, almeno per il momento. Allora, iniziamo a inquadrare il fenomeno numericamente, Puorro. Sì, il fenomeno riguardo al mercato azionario statunitense comunque occupa più o meno, cioè vengono negoziati ad alta frequenza circa il 40-45% dei volumi, quindi è una percentuale importantissima. Sulle altre asset class, quindi titoli obbligazionari, il mercato dei tassi di cambio oppure i titoli derivati, le percentuali tendono a scendere, mentre invece su altri mercati, sempre azionari, ci si abbassa dal 40%, ma comunque si rimane su percentuale intorno al 25-30%. Le chiedo, intanto saluto perché ci ha raggiunto in studio Moria Longo del Sole 24 Ore che ci accompagnerà in questa puntata. Moria, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Le chiedo anche di aiutarci a capire nella maniera più semplice possibile, visto che siamo di fronte a macchine autonome, per essere chiari, quando parliamo di algoritmo, l'algoritmo che cos'è? Non è nient'altro che un'istruzione che viene data ad un computer, che può essere più o meno complessa. Quindi, quando parliamo di trading algoritmico e di trading ad alta frequenza, parliamo di computer istruiti per compiere determinate azioni. Da quel che abbiamo capito e da quel che intendiamo, questi algoritmi e questi computer in realtà sono anche in grado di fare delle cose piuttosto complesse, come per esempio leggere le notizie cosiddette price sensitive, e quindi che hanno un impatto sui mercati, capire che cosa dicono, che cosa c'è scritto in quelle notizie e decidere di investire nel breve termine, come ci diceva Puorro, su questo. In quali meccanismi di mercato e su quali meccanismi di mercato si innestano questi algoritmi e questi computer, Puorro? Tutto fa parte parte della categoria del trading automatizzato, quindi si parla di codici che vengono programmati affinché il sistema faccia qualcosa. Questo qualcosa può essere diverso e può essere diversamente complesso. I trader ad alta frequenza spingono il limite della complessità al massimo e spingono il limite della parcellizzazione temporale dell'orizzonte di investimento al minimo. Quindi, come categoria di trader algoritmici, riescono a fare, a prendere decisioni estremamente complesse in termini particolarmente stretti. Nell'ordine dei millisecondi, giusto per chiarire ai nostri ascoltatori. Sì, esattamente. Quindi nell'ordine dei millisecondi riescono a processare l'ambiente informativo, quindi tutte le informazioni per loro rilevanti, e decidere in base al meccanismo, al loro codice decisionale. Allora, ci torniamo subito su tutto questo e voglio sentire l'opinione e l'idea che si è fatto Moria Longo di tutto questo, però abbiamo una breve pausa per il traffico. Urge strategia subito. L'era dei robot. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, questa è la seconda parte dell'era dei robot. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di macchine che decidono autonomamente dove mettere magari anche i nostri soldi, ossia di macchine che decidono dove e come investire in borsa. Trading algoritmico e high frequency trading, ossia trading ad alta frequenza. Appunto, sono computer con, come dicevamo prima, con degli algoritmi che gli consentono di scegliere dove mettere il denaro. Abbiamo al telefono Alfonso Puoro della Banca d'Italia e in studio con noi Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, vorrei una tua valutazione. Allora, questo è un fenomeno, dal mio punto di vista, io non ho fatto uno studio come Puoro, però dal mio punto di vista che seguo tutti i giorni i mercati, ha questo fenomeno un aspetto positivo ma anche uno inquietante. Quello positivo che i trading algoritmici, siccome fanno gli high frequency trading, siccome fanno tantissime operazioni in pochi millisecondi e sono tanti, sono quelli che garantiscono la liquidità al mercato azionario. Se io risparmiatore voglio vendere le mie azioni un giorno, vado in borsa, vendo le mie azioni, so che c'è qualcuno che li compra perché ci sono investitori che comprano e vendono ogni millisecondo a una velocità velocissima, quantità di azioni grosse, quindi danno liquidità al mercato e questo è positivo. Questo, però, c'è anche un fenomeno, secondo me, un aspetto molto più inquietante. Ci sono moltissime situazioni in cui vedi che il mercato sale, il mercato scende, nessuno capisce perché. Io chiamo i trader carne e ossa, purtroppo ancora non parlo con le macchine, e mi dicono: noi non capiamo cosa stia succedendo, non sappiamo. Probabilmente la spiegazione sono i trading algoritmici che stanno iniziando a comprare o vendere o mettersi in qualche posizione. Allora, io non so se quei movimenti anomali siano, o comunque inspiegabili, siano dovuti effettivamente al trading algoritmici. Però diciamo che la loro presenza dà crea molto spesso movimenti inspiegabili all'uomo comune, ma anche al trader professionista, però in carne ed ossa. La seconda cosa che io rilevo è che da un lato questi algoritmi, questi computer che scambiano velocissimamente azioni, stanno creando liquidità in borsa. Dall'altro però c'è un altro fenomeno che non c'entra nulla con le macchine, ma più con la legislazione che è arrivata, che si sta prosciugando completamente la liquidità sui mercati obbligazionari. I mercati obbligazionari attualmente, siccome le banche, soprattutto le grandi banche d'affari, non fanno più market making, cioè non stanno più sul mercato perché le regole nate dopo la crisi di Lehman Brothers gliel'hanno, non dico impedito, ma l'hanno molto disincentivate, ebbene la liquidità sui mercati obbligazionari, secondo alcuni indici, è calata del 80-90% rispetto al 2007. Liquidità si intende la liquidabilità, quindi la possibilità di comprare e vendere. Un mercato illiquido è un mercato pericoloso, perché nel momento in cui scoppia panico non si riesce a vendere, tutti vogliono vendere, nessuno compra, quindi è un mercato. Allora, il fatto che in borsa ci siano i trading algoritmici da un lato è positivo perché crea liquidità in borsa, almeno un mercato liquido per fortuna c'è, dall'altro crea il problema e il rischio che le vendite vadano a scaricarsi tutte in borsa, quindi di esasperare in borsa i movimenti che in altri mercati non si riescono a fare. E questo mi sembra un punto interessante sulle possibili distorsioni che si creano. C'è un elemento affascinante nel paper che lei ha realizzato, nello studio che lei ha realizzato, Puoro, e che mi ha colpito moltissimo, e ha colpito moltissimo me perché probabilmente non sono particolarmente esperto di mercato, insomma ci si capisce ma non è che ci si capisce tantissimo, ma mi ha colpito come persona interessata al fenomeno dell'automazione, come si sente nella trasmissione che stiamo facendo. Esistono dei sistemi di trading algoritmico che testano le strategie di investimento di altri algoritmi per poterli sostanzialmente, io la dico brutale, lei non la dirà così, fregare. È così, no? Per rispondere alla domanda mi aggancio alla risposta, precedente del collega del Sole 24 Ore, che sulla quale col quale sono d'accordo. Alla fine il fenomeno del trading algoritmico ad alta frequenza è un fenomeno complesso e da molti aspetti, e all'interno del quale si possono identificare degli aspetti positivi come la liquidità al mercato e degli aspetti un po' meno positivi e alcuni aspetti che sembrerebbero invece significativi e sicuramente da approfondire. Il fenomeno di cui lei sta parlando è un po' una tendenza per i trader ad alta frequenza a dover cercare opportunità di profitto su tutti i modi, in quanto per loro le opportunità di profitto sono date. Mi faccio capire, siccome l'orizzonte temporale per loro è estremamente breve, i profitti che possono ottenere sono piccoli da ogni operazione e quindi sono costantemente alla ricerca di opportunità di guadagno. In alcuni casi questa loro necessità li spinge ad essere aggressivi e la loro aggressività potrebbe scaricarsi sugli altri trader algoritmici, cioè quelli che sono meno evoluti, quelli che hanno dei sistemi più prevedibili. Quindi il rischio è che i trader ad alta frequenza più evoluti possano, una volta identificate le regole di trading degli strumenti, dei sistemi meno evoluti, possano approfittarle e quindi cercarli di mettere contro mercato. E questo è un punto interessante ed è una strategia che si basa, attenzione, io vorrei fare questa sottolineatura per gli ascoltatori, non fosse chiaro, qua stiamo parlando di macchine che definiscono una strategia che può essere aggressiva o meno, e stiamo parlando di macchine che lo fanno sostanzialmente da sole, cioè sono state programmate per realizzare un compito che è trarre il massimo profitto possibile nel minimo tempo possibile e sostanzialmente finiscono per scegliere loro la strategia migliore, e tra queste strategie appunto c'è anche il test degli altri, vedere come gli altri trader algoritmici funzionano e che strategia di investimento hanno, e quindi scelgono una tattica aggressiva, e la tattica aggressiva comprende anche, Puorro, se ho capito bene, una serie di finte operazioni. Sì, nei casi limite, sì, alcuni trader ad alta frequenza possono mettere in atto delle finte operazioni, cioè delle operazioni civetta, allo scopo di impedire la risposta degli altri partecipanti al mercato e quindi adattarsi alla risposta, cioè cercano di capire qual è la reazione di altre macchine, quindi degli altri sistemi algoritmici, ad alcuni stimoli di mercato, e in tal modo per ottenere in tal modo la possibilità di capire la reazione di queste macchine. Per essere però precisi, questa strategia non è priva di rischi, perché vi è la possibilità, e non è molto remota, che nel mettere in piedi queste strategie un trader algoritmico, un trader ad alta frequenza si imbatta, trovi una macchina che è altrettanto evoluta se non più evoluta del trader stesso. Quindi nel momento in cui rischia di trovare una macchina più evoluta, a quel punto diventa perdente. Quindi mettere in piedi queste strategie aggressive comunque ha un rischio, e il rischio è quello di essere messo contro mercato e di subire delle perdite. E certo, Mori Alungo, che la figura del trader che abbiamo imparato a vedere nei film, in realtà, quello che in realtà operava sul breve termine, quella evidentemente pare sì ad essere, sembra sì destinata ad essere fuori mercato. Sicuramente scompare di fronte alla velocità delle macchine, tant'è vero che io ricordo quando ci fu la fusione tra la Borsa di Milano e la Borsa di Londra, e il cervellone della Borsa di Milano fu spostato a Londra, tutti andarono nel panico perché la velocità con cui l'elettricità da Milano arriva a Londra non permette a chi si muove, agli algoritmi che si muovono in tempo di millisecondi, di arrivare in tempo. Allora dovettero spostare tutti i cervelloni degli algoritmi a Londra. Quindi è un problema, però questo è un problema che il trader umano non si deve porre. Il trader umano deve investire in base al proprio fiuto, alla propria intelligenza. E tra l'altro, dicevi tu prima, ci sono alcuni trading algoritmici che reagiscono all'immediato, all'uscita di notizie. Loro reagiscono in base a parole chiave, chiave, un po' come Google alla fine. L'essere umano spero sia in grado, anzi ne sono sicuro, sia in grado di valutare un po' meglio la portata delle notizie che escono. Tant'è vero che capita spessissimo che quando esce un dato economico o una notizia particolare, la borsa reagisca nell'immediato in un modo e poi piano piano cambi direzione. Quindi io sono convinto che nonostante la dominino le macchine, comunque l'essere umano sia necessario. E poi, almeno per il momento. Almeno per un po', per qualche anno ancora. La seconda cosa che un po' mi inquieta, che prima non ho detto, è il fatto che del cosiddetto cyber risk, il rischio cibernetico, che è considerato, secondo alcuni sondaggi, tra i massimi amministratori delegati di società o anche in borsa, è considerato uno dei rischi principali che si corre attualmente. Ecco, io mi immagino cosa possa succedere se arriva un attacco cibernetico in questi virus, in questi computer, in questi algoritmi, che cosa possa accadere. E anche questa, caro Moria, ce la mettiamo in tasca tra le preoccupazioni. Grazie Moria Longo del Sole 24 Ore, Alfonso Puorro della Banca d'Italia per essere stati con noi, per averci accompagnati in questa puntata. E voglio dedicare anche oggi quest'ultima parte della trasmissione, questi ultimi minuti che ci rimangono, a leggere qualcuna delle mail che ci avete mandato, delle email che ci avete mandato a eradeirobot@radio24.it. Abbiamo parlato nella puntata precedente, anzi andatevela a scaricare, nell'intervista con Nicola Scar, abbiamo portato l'esempio di come cambia la professione dei medici, le professioni sanitarie con l'arrivo delle macchine. Ebbene, ci scrive un ascoltatore che si chiama Guido Giordano e che è il dirigente medico di un'unità di cardiologia, e ci spiega proprio esattamente come funziona, per esempio l'elettrocardiogramma, dove addirittura l'interpretazione clinica cambia e non è più del medico, la stessa acquisizione del segnale elettrico, l'acquisizione dei dati, appunto l'interpretazione clinica è l'unico compito rimasto di appannaggio del medico, e chissà per quanto ancora. E porta molti altri esempi tecnici, qualcosa in più metterò sul blog. E si chiede, dice, la medicina, come altre scienze e altre attività umane, è profondamente coinvolta da tutto quello che è cambiato, e tutto questo mette gli interrogativi sull'essenza dell'attività del medico e delle nuove figure professionali tecniche che emergono nell'ambito della sanità. Ci fa i complimenti e lo ringrazio Luigi Rosa, che ci suggerisce un nome per la nostra voce, per la nostra voce robotica. Ci dice Elisa con la Z, perché è stato uno dei primi software text to speech, ossia che passano dal testo al parlato. Infine mi ricorda Bruno Maronna, mi dice: attenzione, ogni tanto lo so, mi succede, dico era dei robot, invece l'espressione corretta sarebbe era dei robot, come lo speaker che legge la nostra sigla dice correttamente. Perché? Perché la parola è di origine ceca, rabotat significa lavorare, e è stata utilizzata per la prima volta in un dramma di Karel Capek, Rossum Universal Robot. Grazie anche a Bruno per tutto questo. Ci sentiamo sabato prossimo alle 8:30. Scaricate il podcast e, se avete gradito, raccomandate la trasmissione ad altri esseri umani. Ho analizzato i dati e so già se c'è qualcosa che non va, ma mi manca il vostro punto di vista. Scrivetemi. Una buona giornata dunque da questa voce che non ha ancora nome, e una buona giornata da Simone Spezia.